A bordo campo di Dario Ricci. Parliamo di biciclette oggi a bordo campo, perché insomma è il periodo del Giro d'Italia, poi il Tour de France, poi la grande stagione delle grandi corse. Beh, insomma, grande attenzione per il ciclismo dei professionisti. Ma quella che invece vi raccontiamo noi oggi è tutt'altra storia. È la storia di un tandem che sta per partire da Schio in provincia di Vicenza verso est, verso oriente, perché la meta è prevista dopo 16.000 chilometri da fare in tandem. Verso dove? Verso dove non so, vero Dino Lanzaretti? Sì, appunto, verso dove non sappiamo. Stiamo intraprendendo questa avventura e solamente mossi da un grandissimo spirito di conoscenza, ma con una inconsapevolezza, cioè non vogliamo sapere la meta finale, in modo da essere liberi il più possibile. Ecco, Dino già parla al plurale, perché? Perché di tandem stiamo ragionando, e quindi saranno 16.000 chilometri da qui all'Asia, poi appunto attraverso Turchia, Iran, India, fino alla Cina, dove poi tenterete la salita del Muzang Ata, montagna da 7.546 metri, con gli sci e pure col tandem, quindi hai voglia a impresa. Perché si parla al plurale? Perché l'altra metà del tandem è Simone Salvagnin, 26 anni. Simone, tu dove sei nel tandem? Guidi o sei dietro? Ma io chiaramente sono dietro, perché ho una malattia alla vista che mi ha tolto pian pianino la vista, di conseguenza sono obbligato a farmi guidare nei miei spostamenti, nelle mie attività sportive. Però è una cosa molto interessante, perché nel tandem, anche se sei dietro, comunque guidi anche tu, perché gestisci tutto il peso del mezzo praticamente da dietro. Beh, quindi insomma non puoi addormentarti in questi, esatto, 16.000 chilometri, se no Dino... Sì, perché... Sì, si pensa che stando dietro si possa dormire oppure si possa battere la fiacca, ma in realtà poi è uguale, ognuno ha i suoi compiti, insomma. Beh, Dino, spiegaci un po', ma come nasce questa idea? Soprattutto quella di non avere una meta, mi sembra la carta vincente, no? Sì, fondamentalmente non avere una meta fa sì che qualsiasi sia l'esito del viaggio sia sempre una vittoria. Se uno scala delle montagne si prefigge di arrivare in cima e brucia tutte le energie per arrivare alla vetta e magari trascura tutto quello che gli accade intorno. Ecco, io ho un po' di anni che viaggio e ho capito che il viaggio è quello che succede tra dove parti e dove arrivi. Quindi non è fondamentale il luogo dove arrivi, ma è fondamentale ciò che attraversi per arrivarci, tutto lì. Ecco, tra l'altro, quando Dino dice che è un po' di anni che viaggia, non pensate in business class in aereo, no? Tu sei proprio un esperto di viaggi estremi in bici. Bici o anche come alpinista, però probabilmente adesso mi sto proprio prendendo bene con la bicicletta, tanto anche. Ecco, qualche meta, che cosa hai visto già? Beh, il primo viaggio che ho fatto è preso su una vecchia bici da donna, con valore commerciale 100 euro, ho fatto 8.000 chilometri da solo attraverso l'Indocina, Birmania, Laos, Cambogia, Vietnam, Thailandia, e ho visto che era una cosa stupenda, bellissimo, un modo incredibile di confrontarsi con le persone, si può vedere tutte le persone in faccia, si può vedere ogni metro, e tutto quello che si fa è dovuto solamente alla propria forza di volontà, alla propria capacità muscolare, cosa che appunto, visto i paesaggi, visto la bellezza di ste genti, è una cosa che proprio si va, è incredibile, ma si mangia un po' di riso e si riesce ad andare ovunque, appunto per i sorrisi e per tutte le pacche sulle spalle che ti danno la gente lungo questi viaggi. Poi sono andato in Tibet perché ho detto troppo facile pedalare al caldo, allora ho preso una bici un po' più seria, mi sono preso delle giacche un po' più pesanti e ho attraversato tutto il Tibet da clandestino, purtroppo, perché non ci sono mezzi legali per vedere il Tibet, quindi ho attraversato tutto il Tibet, tutta l'Himalaya praticamente. È stato divertente perché oltre al popolo tibetano ho dovuto anche scappare ai cinesi, posti di blocco, quindi ho fatto ancora più avventura di quelle che mi immaginavo. Simone, ma insomma 26 anni, ma nelle mani e nei pedali di chi ti sei messo? Questo ti porta dall'altra parte del mondo? Beh, chiaramente, insomma, per fare un viaggio ci vuole anche una parte l'esperto, diciamo, per cui io ho conosciuto Dino, Dino, già viaggiatore, mi ha proposto, mi ha raccontato di questo viaggio che voleva fare. Io ho sempre avuto molta passione per gli sport, per le attività comunque che ti portano a fare molta fatica e comunque sport tendenzialmente individuali, legati alla montagna, legati un po' all'avventura, alle escursioni. E per cui mi è sembrata una bellissima occasione, poi tempo fortunatamente in questo momento ne ho nella mia vita, per cui ho deciso di prendere la palla al balzo e di partire con Dino. C'è anche il desiderio umano, umanissimo, di mettere nell'animo, negli occhi comunque, negli occhi dell'anima, tantissime immagini, tantissimi ricordi, tantissima vita, no? È chiaro che per me è una sfida molto grande, anche perché chiaramente poi quando ti manca un po' della vista ti leghi molto agli ambienti e per cui memorizzi molto gli ambienti in cui vivi. E viaggiando così, continuando a cambiare ambienti, la cosa diventa molto più interessante, perché ci saranno un sacco di informazioni, di input nuovi, di odori, di suoni nuovi che non sono abituato a codificare o comunque che non fanno parte del mio habitat di tutti i giorni. Però chiaramente questo ti obbliga ad essere sempre presente, per cui essere molto attento, e chiaramente se l'attenzione non lo fai diventare uno stress, diventa un modo di vivere molto stimolante. Beh, tra l'altro suoni, odori, immagini che non terrete solamente per voi, vero Simone? Perché so che ad accompagnarvi in questa impresa c'è anche un bel bagaglio multimediale, no? Sì, noi abbiamo questa cosa, è una cosa che era molto importante per Dino e poi anche lo è diventato anche per me, il fatto comunque di poter descrivere questo racconto, perché visto che facciamo questa cosa, perché non descriverla e raccontarla, per cui cercare di fare le cose nel miglior modo possibile. Viaggiamo con un'attrezzatura particolare e pubblicheremo nella parte del nostro sito internet, si chiama Diario di Viaggio, pubblicheremo dei video, delle immagini e poi pubblicheremo degli audio racconti che non saranno descrizioni delle immagini che noi vediamo, ma saranno semplicemente delle mie impressioni, per cui tutto ciò che riesco a raccimolare, a recuperare dal punto di vista dei miei sensi, insomma, senza la vista. Per cui sarà una cosa, un attimo, un modo di descrivere anche un attimo nuovo, forse, di questi tipi di paesaggi. Dino, ci descrivi un po' questo tandem, perché a occhio e croce vi portate dietro almeno una ventina di chili, ma a essere scarsi. Estremamente scarsi, pesa 30 kg solamente la bicicletta, ha delle caratteristiche molto particolari, poi abbiamo messo un po' del nostro, abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo attaccato dietro un carrello dove si possono mettere altri 30 kg, poi abbiamo delle borse intorno alla bici con delle staffe particolari, abbiamo calcolato che mediamente bici più bagaglio siamo sui 100 kg. Poi io e Simone siamo altri 150, quindi avremo una mole da 250 kg. Ha dei cambi un po' particolari, quindi siamo attrezzati anche per affrontare salite molto molto molto veramente pendenti, e abbiamo con noi tende, abbiamo con noi tutto l'indispensabile per vivere da soli, quindi fornello per farci da mangiare, filtri per l'acqua, un sacco di altre attrezzature per la sopravvivenza. E questa bici di particolare ha appunto un cambio molto speciale, ha dei freni particolari, perché fermare una bici che pesa 250 kg non è da tutti, quindi abbiamo tre freni, abbiamo dei copertoni che dovrebbero essere inforabili, abbiamo delle selle vecchio stile in pelle che si sagomano sulla forma del nostro sedere, insomma c'è tutta la mia esperienza, c'è tutta la tecnologia che al momento c'è, è una bici veramente... Dovrebbe andare da sola, però purtroppo ci tocca anche chiedere altro. Insomma, aspettiamo l'evoluzione del prototipo, no? Certo. Senti, ma immagino che per un'impresa di questo genere saranno fioccati gli sponsor, quindi insomma si fanno anche i soldi oltre che i chilometri, no? Sicuro è così? No, Dio. Infatti volevo fare una precisazione. Al momento della stesura del nostro progetto avevamo messo in campo anche di fare questa montagna in Cina, il Mustagata, semplicemente per una cosa un'arroganza mia, perché ci sono passato vicino troppe volte e l'ho sempre vista lì e nelle mie portate, però ho detto dai, la facciamo stavolta. Purtroppo la raccolta di sponsor non ci permette di affrontare anche questa scalata, quindi gli sponsor ci hanno aiutato per quanto riguarda i mezzi meccanici, però al momento il nostro sostentamento sarà a debito nostro. Noi siamo stragrati a chi ci ha dato una mano, considerando che io sono sempre partito lavorando, facendo il cuoco, cioè, o cose del genere, vendevo tutto quello che avevo accumulato e partivo per il mondo con pochi soldi. Noi viaggeremo appunto tenda e a costo praticamente zero, neanche l'energia, perché ce la facciamo da soli, e nonostante ciò non possiamo fare, diciamo, i salti di gioia economicamente, però siamo estremamente grati a chi ci ha dato una mano e ci ha permesso appunto di comprare questa mega bicicletta stratecnologica e le attrezzature di cui disponiamo, tra cui i sacco a peli, tra cui tutto l'abbigliamento da montagna che è estremamente costoso, e ancora ripeto, grazie a tutti. Beh Simone, io direi che qua bisogna prepararsi alla dieta, mi sa che più di una volta al giorno in questi 16.000 chilometri non è che si mangia. Il discorso come faceva Dino all'inizio, nel senso che se tu non hai fretta puoi prenderti il tempo di scegliere, per cui puoi prenderti il tempo. Se non hai fretta il corpo lavora con un livello di metabolismo più basso, per cui consumi anche meno volendo. E cercheremo comunque noi di nutrirci di cibo tipico delle zone in cui passiamo, insomma, cerchiamo di vivere, insomma, come vivono le persone delle zone in cui attraversiamo. E allora grazie a Dino Lanzaretti e a Simone Salvagnin, in tandem per 16.000 chilometri verso Oriente e poi chissà dove, verso dove non so. Quello che possiamo dirvi noi di A Bordo Campo è innanzitutto farvi un grande in bocca al lupo e ringraziarvi per averci ricordato ancora una volta che il viaggio è più importante della meta. Grazie a te, Dario. Beh, davvero appassionante l'avventura in tandem che aspetta i nostri due amici. Ora una breve pausa, poi ancora insieme a bordo campo. A bordo campo. Era il 5 maggio 1860, i garibaldini si riunivano a Quarto, vicino Genova, e prendevano la via del mare, tramite poi Talamone, Porto Santo Stefano, le tappe intermedie del loro viaggio. Arrivavano poi l'11 maggio a Marsala. Era il segno forte che l'unità d'Italia era ormai vicina, o il processo quantomeno cominciava ad avviarsi concretamente. Mauro Pellaschier, solo ripercorrere quelle date fa una certa emozione, vero? Assolutamente, molto bello. Per me, poi, che sono triestino di origine istriana, mio nonno lottò per rimanere italiano, quindi ha un'emozione particolare. Immagino emozione ancora più grande rifarla in barca, no? Quella via marina, quel tragitto che portò i garibaldini da Quarto a Marsala. Perché Mauro Pellaschier, lo sappiamo tutti, è uno dei simboli, degli emblemi della vela italiana. Basta ricordare il suo ruolo fondamentale nell'avventura di Azzurra in Coppa America nel 1983 e poi tante altre occasioni, ma proprio in occasione di questa ricorrenza fondamentale per la nostra storia, Mauro, hai avuto anche un ruolo decisivo mettendoti per qualche giorno nei panni di quei garibaldini, vero? Beh, panni molto più comodi sinceramente, perché le nostre barche, due maxi yacht, il Piemonte e il Lombardo, come le battezzati immediatamente, sono delle barche moderne, a vela, molto veloci, quindi ci siamo anche divertiti a sfidarci, diciamo, durante la navigazione, ma soprattutto eravamo più comodi dei garibaldini, senza dubbio. Ah, quello è sicuro. Però ecco, questa iniziativa vi ha visto protagonisti, a te, Francesco De Angelis e tanti altri grandi velisti italiani, sulle orme dei garibaldini a bordo di due grandi yacht per ripercorrere quella rotta. Ecco, com'è nata questa iniziativa? L'iniziativa nasce da Marsala, che voleva celebrare proprio questo evento, e quindi siccome è una città che produce campioni di vela, perché non facciamo di nuovo la rotta di Garibaldi, ripercorrendo anche le soste e la stessa rotta con due barche moderne, con dei velisti che ovviamente possono tranquillamente ripercorrere tutto ciò. 490 miglia praticamente il percorso, e anche portare un messaggio a Marsala, tra l'altro supportato sia in partenza che poi all'arrivo dalla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ci ha dato la partenza a Quarto e poi ci ha accolto a Marsala l'11. Infatti, in queste occasioni il presidente Napolitano ha ribadito proprio l'importanza dell'Unità d'Italia, l'importanza di quel gesto eroico e straordinario dei garibaldini. Cittadini e giovani, magnifici giovani di Marsala, sono felice di essere qui perché in realtà soltanto se si tocca nel profondo la realtà popolare di una città come la vostra si può cogliere la profondità del sentimento nazionale, il calore del senso di appartenenza all'Italia unita che vi ispira e che vi può guidare nel futuro. Grazie per questa splendida, così calorosa siciliana accoglienza. Ecco Mauro, ti chiedo, tappe intermedie a Talamone e Porto Santo Stefano, che furono proprio anche i luoghi che ospitarono i garibaldini nel loro viaggio, nella loro traversata, proprio come tappe intermedie appunto. Qual è stata invece l'accoglienza che avete ricevuto voi? Ma fantastica, a Talamone siamo stati accolti dalla comunità con molta gioia e tra l'altro c'erano i bambini delle scuole che poi abbiamo imbarcato, abbiamo fatto un po' di evoluzione davanti al porto e poi abbiamo visitato la casa che ospitò Garibaldi in quei pochi giorni, quindi un buon pranzo ovviamente per la parte ludica, senza dubbio importante. E non abbiamo imbarcato le armi perché non servivano, ma comunque la tappa l'abbiamo fatta, l'abbiamo goduta sicuramente. Poi siamo andati a Porto Santo Stefano, che è molto vicino, lì abbiamo rimaneggiato le barche per una giornata e poi l'8 siamo ripartiti alla volta di Marsala, salutati dal sindaco di Porto Santo Stefano e da Giuseppe Garibaldi, che poi è un nipote ovviamente del grande Giuseppe. E dicevamo equipaggi d'eccezione, chi c'era a farti compagnia e anche con chi ti sei sfidato e con chi hai duellato in mare? Ma diciamo che il compito era un po' frenare le barche, nel senso che noi eravamo molto più veloci rispetto alla data che dovevamo rispettare e quindi abbiamo giocato un po' in mare in modo tale da rallentare le barche piuttosto che fare una gara vera e propria di velocità per chi vinceva questa competizione. Ma è stato più che altro un ricordare questo evento, ripercorrendo la rotta, credo quasi alla perfezione, nel senso che da Porto Santo Stefano abbiamo puntato Marsala e lì siamo arrivati. C'era un gruppo di velisti a bordo con me che con Francesco De Angelis che fanno parte di team di Coppa America e altri velisti invece di Marsala e di Palermo che arricchivano poi l'equipaggio. Tutti ragazzi impegnati nella professione della vela e nel circuito mondiale che conta, quello appunto della Louis Vuitton Trophy. In questo momento ricordo che proprio tra pochissimi giorni a Maddalena ci sarà l'evento appunto della Louis Vuitton Trophy dove parteciperanno tre team, alcuni di questi ragazzi erano a bordo con me, di Azzurra e dello Yacht Club Costa Smeralda, di Mascalzone Latino e Luna Rossa di Prada, un evento che seguiremo con gioia, ma sì, questi ragazzi ovviamente hanno fatto un po' di allenamento, visto che navigavamo su Maxi 8, molto simile poi a un Coppa America, e in vista proprio di questo grande evento. Eh sì, poi chissà che poi la Coppa America non torni proprio in Sicilia, no? Lo ricordiamo, la tappa intermedia che c'era stata a Trapani qualche anno fa, con grande attenzione e grande partecipazione ed entusiasmo, no? Sì, di pubblico soprattutto, 700.000 presenze nei due weekend, qualcosa di eccezionale, di eccellente per la vela e per la Sicilia che ha ospitato veramente tantissimo pubblico appassionato di questo sport e soprattutto ha accontentato anche lo spirito del velista, cioè quello sì, competere sì, il mare, però a terra un po' di affetto ci sta, insomma ci vuole e lì sicuramente siamo stati accolti veramente con grande affetto e che abbiamo goduto anche questa parte importante dell'evento. Mauro Pellaschia, ti chiedo ancora, tu che sei stato un simbolo dell'avventura di Azzurra, che in quell'estate magica dell'83, lo ricordo, riunì tutta l'Italia nella scoperta e nel tifo per la vela, triestino di nascita e quindi terra di confine in cui il sentimento patriottico è sempre vivo nel cuore di tutti. Ecco, che effetto ti ha fatto ripercorrere quella rotta, soprattutto alla luce di quelle che sono un po' le polemiche, il dibattito attuale che c'è intorno a questo 150enario della nostra Italia, e soprattutto per quelli che sono anche gli scenari futuri che la politica in qualche modo dibatte intorno al futuro del nostro paese? Ma io sinceramente, ripeto, grazie proprio a mio nonno, ho avuto lo spirito di italiano, veramente. Ho avuto la fortuna di ripercorrere anche la strada di mio padre e di mio zio, grandi campioni della vela, sia mio nonno che mio zio costruttori anche navali, quindi ed imbarcazioni da diporto. Quindi ho percorso anche l'attività agonistica fino alle Olimpiadi, quindi ho rappresentato l'Italia moltissime volte, sia in campionati mondiali europei che le Olimpiadi, poi in Coppa America, in Giro del Mondo, tanti eventi dove mi sono sentito veramente italiano, e ho rappresentato sicuramente quella che è la capacità, la tecnica e la sportività italiana. Quindi quello che abbiamo fatto oggi è semplicemente un qualcosa ancora di più, quello che ci ha dato l'opportunità di essere italiani. Quello che c'è politicamente o il dibattito, cioè, sinceramente non mi interessa minimamente. Io e credo anche tutto l'equipaggio che avevamo a bordo, che erano siciliani alcuni e di altre parti d'Italia, ci sentivamo tutti uniti sulla stessa barca, un grande equipaggio per una bellissima rotta. Mauro Pellaschia, allora grazie per essere stato ospite a bordo campo, buon vento a te e permettimi anche all'Italia in occasione dei suoi 150 anni. Condivido, ciao, ciao a tutti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. Con le piccole grandi storie dello sport di A Bordo Campo ci risentiamo domenica prossima sempre alle 14.30. Vi ricordo anche sabato alle 13.15 l'appuntamento con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.